America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. New information tonight about questions around computer communications this summer between servers owned by a Russian bank and the Trump organization. Beh, avete sentito il newscast? L'FBI sta continuando a indagare sul possibile collegamento tra banche russe e l'organizzazione Trump. Una di queste banche è la Alpha Bank. Beh, di questo se ne era già parlato l'estate scorsa, poi la cosa in qualche modo sembrava essere passata nel dimenticatoio, ma devo dirvi che nelle ultime settimane, proprio una sera in cui mi sono trovato in compagnia di alcuni giornalisti investigativi che lavorano per importanti pubblicazioni americane, la questione della connection tra Trump e certi finanziatori russi è riemersa. L'idea è che ci sia un collegamento tra le dichiarazioni fiscali di Trump e alcuni di questi finanziamenti. Ci sono stati dei collegamenti tra server di questa banca in particolare e la campagna di Trump. Insomma, si sta cercando di capire che cosa è successo davvero. Trump continua a negare di aver mai avuto rapporti con finanziatori o finanziamenti russi, però devo dire che su questo stanno lavorando davvero in molti e chissà che non venga qualche sorpresa. Su un altro fronte Donald Trump è invece all'attacco, e cioè sul fronte della riforma sanitaria, ha detto che farà guerra, battaglia, metterà in difficoltà qualunque deputato o senatore repubblicano che si andrà a schierare contro il suo progetto di riforma sanitaria. Come vi avevo anticipato ieri, ci sono molti conservatori del Partito Repubblicano che sono contrari semplicemente all'idea del fatto che ci sia un piano sanitario che in qualche modo possa aiutare una buona parte della popolazione che fino a quando non ci fu l'introduzione di Obamacare era non coperta in alcun modo da assicurazione sanitaria. Ecco, su questo Trump fiuta l'importanza di restare legato anche alla sua base, che è una base popolare, che è una base che forse ha bisogno di questa assicurazione sanitaria, pur andando contro l'ideologia di fondo del Partito Repubblicano. Bene, approfitto, parlando di sanità, per riprendere una tematica di ieri. Avevo fatto ieri, come ricorderà qualcuno, un'intervista col professor Croce, che era stato accusato dal New York Times praticamente di aver condotto delle frodi su certe sue ricerche scientifiche. E mi scrive un'ascoltatrice, Maglia Forte, la quale mi dice, ma insomma sono rimasto un po' deluso dalla sua trasmissione, l'ho trovata un po' superficiale, perché l'argomento delle frodi nel campo della ricerca scientifica è sempre più diffuso. E dice, il professor Croce si è ovviamente difeso, ha liquidato la pratica parlando di disattenzione in un singolo articolo scientifico. In realtà, dice, gli articoli contestati dal professor Croce sono molto numerosi, contestati, sottolinea, dalla comunità scientifica. Dice che non giudica l'operato del professor Croce, sarà la comunità scientifica a farlo, ma dice, mi sarei aspettato da lei, beh, mi dice anche che mi stima, grazie naturalmente, un po' più di senso critico. Bene, rispondo, perché devo dire che non è stata una trasmissione improvvisata quella di ieri, ma è il risultato di molte telefonate preparatorie per capire, verificare la portata dell'articolo del New York Times. Ho parlato con professori che fanno ricerche scientifiche e dunque sono arrivato a una conclusione molto semplice. La conclusione è che il New York Times, essendo un giornale, ha cercato, come dire, di fare sensazionalismo, perché una cosa è individuare una gran quantità di articoli sui 1000, diciamo, che ha scritto il professor Croce, ce n'erano 900 sbagliati, e dunque c'era un metodo, c'era soprattutto una truffa, c'era una truffa volontaria. Il New York Times dà l'impressione che il professor Croce abbia fatto, come dire, delle frodi, però poi non lo prova. E io trovo che questo sia un sensazionalismo sbagliato, perché il professor Croce in realtà è un'icona della ricerca sul cancro, la sua opera è incontestata da tutti, anche dopo questo articolo. Sono uscite, tra l'altro, numerose reazioni, come dire, negative a questo articolo del New York Times. Io credo che, insomma, se il New York Times decide di essere rivista scientifica, sbaglia, perché inevitabilmente cerca di scrivere qualche cosa che poi possa avere anche la dello scandalo. E allora sono d'accordo con quello che dice la signora Forte, che sia la comunità scientifica a condurre le ricerche, sapendo che, come ha ammesso il professor Croce nell'intervista di ieri, tutti possono sbagliare. Se si tratta di errori non voluti, di errori che capitano in un numero di ricerche non enorme, appunto su 1000, se fossero state 20, 30, dico, può succedere, e soprattutto su ricerche che possono contenere degli errori, ma degli errori tali che non hanno mai avuto un impatto determinante, per esempio nella formulazione di una medicina sbagliate, dunque dannosa. Finora questo non è emerso e aspettiamo naturalmente l'esito della comunità scientifica, perché, come si dice, the jury is out. Dow Jones Industrial Average closing very near to the lows of the day. We were down about 300 points. Basically, we saw US stocks fall amid a global sell-off today. Bene, passiamo alla borsa. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Questo newscast che vi ho fatto ascoltare è del 9 marzo 2009, quando il Dow Jones era quota 6.547. Pensate, ogni tanto ci penso, ci sono state persone che hanno comprato allora a quota 6.500, a quota 7.000 subito dopo la crisi e oggi avrebbero guadagnato il 300%. Devo dire che la domanda che tutti si pongono è, siamo con un Dow Jones ai record, ma regge? Ieri ha chiuso a quota 20.858, un leggero rialzo, però siamo in una fase di riflessione, una fase di realizzo di profitti. E dunque, in mezzo a tanti record, ho trovato una notizia che secondo me è piuttosto interessante, dovrebbe farci pensare, e cioè che ci sono alcuni protagonisti del mercato, cioè i grandi manager, i chief executive officer delle grandi aziende americane quotate in borsa, che, pensate, in questo momento stanno comprando pochissimo le loro azioni. E questo è un dato, come dire, che mi ha colpito, perché vuol dire che forse c'è scarsa fiducia da parte di queste persone che sono le protagoniste dell'economia nei livelli di borsa. Pensate che gli acquisti da parte degli insiders sono stati in questo periodo al livello più basso in 29 anni. Ho con me ai microfoni America 24 Marco Valsagna, che proprio ieri si occupava di borsa. Marco, insomma, dobbiamo essere preoccupati perché, insomma, c'è l'idea che potrebbe esserci forse una correzione. Non credo che siamo alla vigilia dell'orso, ma secondo te una correzione è possibile? È sicuramente possibile, questo cominciano a pensarlo numerosi analisti, proprio perché non c'è stata da tempo. Il mercato è reduce da record a ripetizione a colpi di guadagni di 1.000 punti ciascuno e la storia ci insegna che normalmente ogni 1.000 punti c'è una correzione al ribasso del 5% proprio per digerire questi guadagni. Ecco, manca ormai da tempo e ci si domanda se a questo punto sia in agenda. Lascia anche riflettere il fatto che anche un protagonista del Trump Rally, il consigliere di Trump e finanziere Carl Icahn, in questo momento in realtà ha una prevalenza di posizioni short, quindi ribassiste, nel suo portafoglio azionario. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di borsa, di aumenti inarrestabili e dunque vi propongo di Liza Minnelli un classico. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainer, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flapping boats are sure on being poor. Money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!